Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi da Nicoletta e benvenuti. Tutti i giornali riportano in prima pagina la notizia della gita trasformata in tragedia in cui è morto Franco, un bambino di 11 anni, forse stroncato dal caldo, dalla fatica. Sarà l'autopsia a individuare le cause. Al momento l'unica certezza è il dolore grande, incommensurabile, inconsolabile dei genitori e degli amici, a cui naturalmente ci uniamo tutti. Oggi, insieme a tanti esperti, cercheremo di capire come e perché il caldo può trasformarsi in un pericolo per la nostra salute, quali sono i meccanismi che possono essere alterati, messi in difficoltà dalle alte temperature e soprattutto quali sono i segnali che il nostro corpo ci invia quando è in difficoltà, segnali che dobbiamo imparare a conoscere. Ci accompagna oggi la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari e responsabile del centro trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie, bentrovati tutti voi. Grazie. Dottoressa, il nostro organismo è attrezzato per mantenere la sua temperatura intorno a 37 gradi, limite compatibile con la salute. Ma quando la temperatura e l'umidità crescono, aumentano, è costretto a fare gli straordinari, diciamo così. Che cosa succede? Beh, è vero, il nostro organismo, noi siamo animali a sangue caldo e quindi abbiamo bisogno di mantenere una certa temperatura, che è quella che ci serve per poter avere tutte le funzioni cellulari che possono funzionare al loro meglio. Quando questa temperatura scende corporea, cosa che si verifica molto raramente, ma per esempio viene fatto apposta negli ambienti di chirurgia, in cardiochirurgia per esempio, il metabolismo cala ed è questa una delle strategie che si usa in sala operatoria quando si fanno gli interventi sul cuore, proprio per ridurre il bisogno di ossigeno del cuore in modo da poter operare con tutta tranquillità e ridurre le probabilità che si verifichino degli eventi avversi. Quando invece il nostro corpo viene esposto a delle temperature più alte del normale all'esterno, questo può provocare una vasodilatazione imponente, quindi i nostri vasi cercano in qualche maniera di disperdere il caldo che altrimenti il corpo accumulerebbe. L'altra forma di variazione della temperatura del corpo è legata alla febbre. La febbre la conosciamo tutti sappiamo che la febbre può capitare per forme virali, per malattie varie, ma quello che tante volte ci dimentichiamo è che la febbre è un modo per guarire. La febbre è la reazione dell'organismo che reagisce all'aggressione da parte di un microbo, da parte di una malattia, combattendo, aumentando la temperatura per aumentare il proprio metabolismo, aumentare la propria capacità di difesa e debellare il virus. È per questo che spesso l'aggressione su una febbre 37,5-38 con i farmaci è assolutamente troppo inadeguata. Tante volte troppo tempestiva. 800 24 00 24, mi sono dimenticata di darvi il nostro numero verde che come sapete è sempre attivo, così come quello per inviare i messaggi al 349 238 6666. Dottoressa Rotavender, quali sono gli organi più a rischio, quelli che soffrono di più il caldo? Ma io direi che gli organi più delicati sono proprio il cervello, che è sempre l'organo più importante, e quindi tutto il sistema nervoso centrale che dal cervello dipende, come la nostra centrale di comando, non possiamo far mancare l'ossigeno alla centrale di comando. Il fegato, che certamente è un organo molto importante perché è quello che filtra, oltre ad avere la funzione di produrre tante sostanze che ci servono, il fegato ha anche la funzione di eliminare e di trasformare molte sostanze dannose, una per tutti, l'alcol che ingeriamo quando esageriamo con le bibite alcoliche. Il rene, che è un altro organo filtro molto importante e che ha il compito di mantenere anche una adeguata fluidità del sangue. Quando beviamo troppo poco, per esempio, il nostro sangue, se mi passa il termine un po' semplicistico, diventa denso, il rene fa più fatica perché deve estrarre da questo sangue l'urina che si porta via le scorie. Quando l'urina è molto densa, vuol dire che il rene fa un po' più fatica, vuol dire che non beviamo abbastanza. E, guarda un po', tanto per cambiare, visto che è la mia passione, il sistema della coagulazione del sangue. Certo. Anche in questo, ovviamente, il sangue è coinvolto ovunque perché è il fluido che ci nutre e del fluido che ci ripulisce. Quindi il sangue di una persona esposta a temperature troppo alte, difatti si dice sempre per i bambini piccoli quando hanno la febbre, idratateli, non importa se mangiano poco, ma idratateli, il sangue deve rimanere fluido. Quando il sangue non è fluido abbastanza può provocare dei danni da ischemia, da trombosi. E i bambini hanno una maggiore difficoltà rispetto agli adulti a disperdere il calore. In linea con noi abbiamo il professor Luca Bernardo, direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Per tutti e per i bambini in particolare valgono le regole di buon senso, ma abbiamo bisogno di ripassarle un po' con lei allo stesso tempo, professore, ricevere qualche informazione che ci può essere utile per prevenire o per risolvere eventuali emergenze. Partirei dai lattantini, anche loro soffrono il caldo, ma soprattutto perché i bambini sono così vulnerabili nei confronti del caldo? Beh, innanzitutto, come abbia spiegato la collega, quali sono i meccanismi, diciamo, scientifici, clinici, che aiutano il corpo ad abbassare la temperatura se c'è necessità, ma anche a disperdere purtroppo calore, con tutto quello che sono poi le conseguenze di un caldo eccessivo o di un caldo a cui non si è preparati. Per quanto riguarda i bambini, i lattanti, i neonati, ricordiamo sempre che il paragone piccoli uomini, piccole donne non ci sta molto, quindi i bambini sicuramente sono molto più fragili. La differenza è soprattutto nei neonati e lattanti, che sono bambini, diciamo, che sono appena arrivati nel nostro mondo, si devono adattare, hanno dei meccanismi in crescita e quindi più difficilmente a volte si riequilibrano a differenza degli adulti. La distinzione si può fare un po' tra l'allattato, per esempio, al seno, sì, che non ha bisogno di nulla perché è esclusivamente allattato al seno e quindi è la mamma che gli dà quei liquidi che ha necessità di bere, di nutrirsi, per cui non solo si nutre ma anche si idrata. E la mamma invece, che in quel caso deve ben idratarsi, quindi bere molto non in una sola occasione o ai pasti, ma lungo, durante tutta la giornata, perché la buona idratazione della mamma poi passa anche al lattantino. Esatto. Mentre per i bambini che sono nutriti con latte artificiale, professore? Ecco, ricordo che i bambini allattati artificialmente, quindi con un alimento adattato, questo si prepara con l'acqua o è già preparato in forma liquida, quindi comunque idrata, ma in questo caso tra un pasto e l'altro, sicuramente in questo periodo in particolare, va dato, somministrato qualche bevanda, che può essere anche semplicemente acqua, anche a piccoli sorsi, perché l'importante è che l'idratazione avvenga lentamente, cioè non bisogna mai eccedere nell'idratare eccessivamente un bambino molto piccolo. L'estate, professore, è una stagione di vacanze in cui i bambini finalmente possono giocare all'aria aperta. È importante però che anche i bambini siano, tra virgolette, educati a riconoscere le sensazioni di fatica, i campanelli che il loro corpo gli manda per segnalare ad esempio la sete, spesso sono presi nel gioco e si dimenticano di bere, o per finiscono la partita e rimangono molto tempo magari sotto il sole. Professore, vogliamo aiutare così le mamme a dare delle informazioni chiare, a insegnare ai loro bambini a fermarsi, rinfrescarsi, soggiornare un po' all'ombra? Sì, io direi che ha detto una cosa veramente saggia e importante, che sono, credo, le famiglie che devono dire ai loro ragazzini, ai loro bambini, perché spesso non ci pensano, perché giocano, si divertono, in quel momento pensano ad altro. Purtroppo poi possono arrivare e giungere dei sintomi che invece sono sintomi di iniziale idratazione o sintomi di iniziale malessere. Sicuramente quello che bisogna dire ai propri bambini, che dopo e durante una partita di calcio comunque bisogna idratarsi, anche quando si gioca per tanto tempo sulla spiaggia bisogna a volte mettersi all'ombra, bisogna mettersi il cappellino, bisogna che bevano, bevere sempre a piccoli sorsi e non, ripeto, bottigliette intere una dietro l'altra, perché poco serve, e soprattutto bagnare il proprio corpo, soprattutto se è sotto il sole cocente, se è sulla spiaggia o magari in un'area dove c'è a disposizione l'acqua, quindi magari anche mettere le manine, le braccine, sciacquarsi il volto, il viso, le zone quelle più scoperte e che più direttamente sono state colpite dal sole. Grazie professor Bernardo per essere stato con noi, la saluto e le auguro una buona giornata. Grazie a lei. Dottoressa Rota Wender, consigli di buon senso. Una cosa molto carina che diceva la mia nonna, e molto spesso i nostri I nostri nonni dicevano cose di saggezza che però hanno ancora molto senso. Mi ricordo che una delle frasi più tipiche era: le mamme dovrebbero tutte andare in purgatorio per la sete che fanno patire i loro bambini, questo soprattutto nel primo anno di vita. E quello che dice il professore sull'idratazione della madre che poi allatta è molto vero. Molto spesso noi ci dimentichiamo di bere, ma soprattutto molto spesso scambiamo per fame quello la che sete. Invece è un istinto di sete, e quindi ingrassiamo e accumuliamo calorie anche per questo. Dottoressa, colpo di calore, colpo di sole. Il primo è provocato da un eccessivo innalzamento della temperatura corporea, legato forse a un'insufficiente traspirazione, mentre il secondo, il colpo di sole, come dice la parola, provocato dall'esposizione ai raggi solari per un periodo piuttosto lungo senza un'adeguata protezione. Non sono molto facili da distinguere uno dall'altro, anche se il colpo di calore è caratterizzato da un rossore intenso al viso, ma non vogliamo distinguerli, vogliamo capire come riconoscerli e soprattutto che cosa fare, perché possono, capitano, il colpo, la parola rimanda a qualche cosa che sembra capitare all'improvviso. Sì. E può capitare a tutti. Capita all'improvviso, ma è sempre prevedibile o sì. Prevenibile, è un problema di prudenza ed è un problema di informazione. Sono troppe le persone che vediamo, per esempio, passeggiare in climi molto caldi, come può accadere in questi giorni, magari persone molto anziane che devono fare una commissione, perché devono raggiungere qualcuno, e se su strade asfaltate con pochissimo verde si espongono a delle camminate che per la loro età potrebbero essere eccessive, e lo fanno senza nessuna protezione, quindi senza un cappello in testa, è così facile, è un concetto così semplice, lo sappiamo tutti, però bisogna pensarci, quindi non aspettare che ci succeda qualcosa. Ci sono delle forti febbri anche che possono verificarsi dopo un colpo di calore, dopo un colpo di sole. Sono situazioni che vanno assolutamente evitate e prevenute. Una volta che si verificano, possono dare anche dei disturbi dello stato di coscienza. Il meccanismo è sempre lo stesso: eccessivamente importante il calore che assorbiamo, impossibile liberarci di questa quantità di gradi che abbiamo accumulato, perché non riusciamo a buttarli fuori, non adeguata idratazione che invece forma questo film sulla pelle, che è il sudore e che aiuta, la perspirazione aiuta a buttare fuori il caldo, e questo ci porta a uno squilibrio, perdita di sali. Noi abbiamo tutte le cellule nostre, funzionano su un meccanismo di chimica, sodio e potassio entrano e escono dalle cellule, sia dalle cellule nervose che da tutte le cellule muscolari, e sono quelle che regolano l'equilibrio. Quando noi sudiamo in un modo eccessivo, proprio perché siamo stati esposti troppo a lungo ad una temperatura troppo alta, tutta questa sudorazione ci porta via non soltanto acqua ma anche sali. Se noi assaggiamo il nostro sudore è salato, e vuol dire che stiamo perdendo sali. Questi sali vanno reintegrati, e a questo scopo credo che alcuni, diciamo, beveroni di quelli che usano gli atleti abbiano proprio questo senso e possono essere importanti. 800 24 00 24, mi state scrivendo ogni anno, ad esempio un ascoltatore mi scrive: ogni anno con l'arrivo del caldo si ripetono per me le stesse problematiche, cioè debolezza, mal di testa, incapacità a svolgere lavori pesanti, malessere generale e a volte quasi svenimenti, la pressione si abbassa e si ha paura di cadere da un momento all'altro. Dottoressa Rotavender, siamo al supermercato, siamo per strada, una persona presa per effetto del caldo, per un calo di pressione, sviene. Vogliamo dare delle indicazioni molto semplici, perché proprio nei giorni scorsi ho soccorso una persona impuntandomi un po' cercando di fermare le persone che le stavano tutte addosso e cercavano di metterle in piedi. Io ho seguito un po' le indicazioni che danno gli esperti qua a Essere Benessere, e ho invece cercato di ho detto: teniamola un pochino sdraiata. E poi è arrivato il 118 e si sono naturalmente i volontari, i medici occupati di lei. Ci dà delle indicazioni, perché viene subito la tentazione, uno sviene e allora la tiro su. Invece la mia paura è che adesso, quando uno sviene, tutti si buttino su questa povera persona per fargli massaggio cardiaco, perché purtroppo la televisione ci ha insegnato che tutto questo sembra essere estremamente facile da fare. E invece forse le prime cose importanti sono quelle da non fare. Quando una persona sviene, se noi non la conosciamo, quindi non è una persona della quale ci occupiamo, persona, quindi conosciamo quali sono i suoi problemi. Se noi non la conosciamo, la prima cosa che dobbiamo fare è assolutamente non muoverla. La seconda cosa che non dobbiamo fare è non toglierle l'aria, ed è esattamente quello che lei ha fatto in quella situazione, quindi stare lontani. Assolutamente, perché le togliamo l'ossigeno e togliamo l'aria. Slacciare, questo lo dobbiamo fare invece, slacciare eventuali parti, soprattutto nella parte alta del torace, bottoni, camicette strette, collo, per poter poterla lasciare respirare. E forse l'unica cosa che possiamo fare, se non è una persona che è caduta perché ha avuto un trauma, quindi l'abbiamo vista volare sul pavimento del supermercato, sollevarle gli arti inferiori per favorire il ritorno del sangue al cuore e quindi aiutare il cuore a recuperare quella parte di sangue che è indispensabile che lui rimandi in giro immediatamente, soprattutto al cervello, che è quello che si spegne momentaneamente quando la persona perde coscienza. Si somministrano liquidi? Va bene lo zucchero, bene, il cicchetto forte come suggerivano alcune persone, diamogli, andiamo a prendere qualche cosa di forte. No, allora, se conosciamo la persona, potrebbe essere una persona per esempio diabetica che è andata in carenza di zuccheri, in questo caso è lo zuccherino che la può aiutare, ma dare a una persona svenuta che quindi non è in grado di controllare la deglutizione qualcosa da bere è estremamente pericoloso, perché vuol dire rischiare di farle di far percorrere al liquido il percorso sbagliato che potrebbe finire nei bronchi e quindi provocare un disastro. È meglio non farlo, è meglio se la si vede accaldata, bagnarle la cute con dell'acqua, bagnarle le labbra, ma non farla bene. No, non possiamo dare questo suggerimento perché è troppo pericoloso. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Fatati. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi. Presidente di ADI. ADI è l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, oltre a essere direttore di diabetologia e dietologia all'ospedale di Terni. Finita la qualifica, professor Fatati. Abbiamo in linea con noi Andrea che ci chiama da Milano. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno, io sono un ex atleta a livello amatoriale. Volevo fare un commento su quanto detto dalla dottoressa, comunicare la mia esperienza. I beveroni per integrare vanno bene, però a me mandavano, soprattutto per il potassio, in fortissima tachicardia, e addirittura il medico mi ha detto che avevo rischiato di avere un incidente brutto. Volevo sapere i medici cosa ne pensavano sull'uso eccessivo in allenamento di questi beveroni. Grazie. Grazie. Due risposte, dottoressa Rotavendere, passiamo poi al professor Fatati. Ma io sono stata appositamente generica dicendo beveroni per indicare qualche cosa che non sia solo ed esclusivamente acqua. Forse il professore è più competente di me per rispondere a questo. Gli passo la palla. Professore, reintegrare quello che noi perdiamo attraverso la sudorazione, e ci sono delle bevande che sono proprio formulate con questo obiettivo. Come ci si destreggia? Come si scelgono? Sono indicate? Sono solo per gli sportivi o anche per le persone che soffrono in modo particolare il caldo? E che tipi possiamo avere in commercio? Sicuramente la prima cosa da dire è che quello che perdiamo è soprattutto acqua, per cui la prima cosa è che bisogna reidratarsi. Spesso oltre ai cosiddetti beveroni vengono presi anche degli integratori a base di potassio, magari sciolti in poca acqua, e quindi questo può creare qualche problema. Il consiglio, e direi quello che possiamo dire in generale, è che chi non fa sport in modo agonistico e segue delle norme che purtroppo sono le solite, sono quelle banali ma che sembra ci dimentichiamo sempre, ha necessità verosimilmente solo di acqua, perché poi con la nostra alimentazione e con la frutta, la verdura o qualunque cosa stiamo mangiando reintroduciamo tutto, non è che perdiamo poi così tanti sali una persona normale che suda normalmente. Poi c'è lo sportivo vero, quello che fa agonismo, quello che in realtà o anche lo sportivo che decide per sua scelta di fare 2 ore di tennis magari con una temperatura molto elevata, e anche se non è veramente un atleta che fa agonismo, però riesce in realtà a perdere molti sali e quindi ha necessità anche di qualcosa. Però diciamo, tranne queste estremizzazioni, dobbiamo sempre ricordarci che la prima cosa che dobbiamo reintrodurre è l'acqua, poi tutto il resto, e sempre usare delle bevande discretamente diluite, perché sono quelle che ci consentono di reintrodurre tutto quello che ci serve senza avere grandi problemi. Io sudo molto, ci scrive Michele, prendo un prodotto a base di potassio, magnesio, penso vada bene, non penso che in questo modo vado a sovraccaricare i reni, e ci dice, vero? Vuole essere tranquillizzato Michele. Professor Fatati. Ma io la risposta penso che non si possa reintrodurre, ecco, l'importante è non reintrodurre quello che sudiamo soltanto con integratori o con bevande addizionate, ma considerare sempre che prima di tutto dobbiamo introdurre acqua, poi possiamo introdurre anche qualcosa, in questo modo non sbagliamo, quindi evitare di dire vado in palestra, prendo soltanto il beverone, no, prendo l'acqua e poi se mi serve prenderò anche qualche altra cosa, però anche se è una cosa banale, ma quello che noi, il nostro rischio è la disidratazione, ossia la perdita d'acqua, che tra le altre cose ci fa perdere la forza muscolare, quindi la capacità di ottenere di performance e di ottenere dei risultati, e dobbiamo considerare che anche i crampi che normalmente tutti addebitano alla mancanza di potassio, alla mancanza di qualche minerale, in realtà sono quasi sempre il sintomo di una disidratazione, quindi il crampo è sintomo di disidratazione e non di perdita di altre cose. Grazie professor Fatati per essere stato con noi. Dottoressa, facciamo una piccola parentesi sul potassio, perché arrivano tante domande dei nostri ascoltatori. È inutile prendere il potassio se non ne abbiamo bisogno, vero? Sì, è molto se stiamo importante, bene, eccetera. Sì, non è importante sottolineare questo. Quando noi assumiamo i sali minerali attraverso un sistema naturale, che è il consumo di frutta e verdura, non si vede mai una persona andare in eccesso di potassio, perché non si sa per quale ragione, per questioni nutrizionali, di bilanciamento, un consumo adeguato di frutta e verdura non comporta quasi mai degli eccessi, a meno che non siano sostanze particolari. Invece, quando ho sentito l'ascoltatore che chiedeva e diceva io prendo degli integratori a base di potassio e mi integro tutti i giorni, prendo il potassio, ecco, questo può essere molto pericoloso, perché il livello del potassio nel nostro sangue ce l'hanno insegnato all'università, ce l'hanno detto e stradetto i nostri maestri quando eravamo ancora studenti, ricordatevi, attenzione al livello del potassio. Il potassio è quando è in eccesso o quando è in difetto e ha un margine di normalità abbastanza relativo, molto stretto, il potassio può scatenare delle aritmie cardiache. Quindi il mio consiglio è che le persone che stanno bene, che non hanno un'indicazione specifica del medico ad assumere potassio perché prendono dei farmaci che li possono impoverire del potassio naturale, non debbono prendere degli integratori che necessariamente contengano tanto potassio. Quindi gli integratori vanno presi se si è in attività fisica, se si è in un periodo in cui si chiede molto proprio corpo, e se si prendono dei farmaci che possono da una parte impoverire, quindi bisogna reintegrare le riserve, ma bisogna stare attenti al potassio. 800 24 00 24, abbiamo Mario da Roma, Augusto da Bergamo e Wanda da Venezia. Iniziamo con Mario, poi saliamo. Mario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, complimenti a voi e alla dottoressa. Senta, scusi, volevo proporre questo piccolo problema. Tempo fa, in questo caso, abbiamo mangiato in campagna con degli amici all'aperto, sotto il sole, una pergolata, però dopo il pasto che abbiamo bevuto regolarmente acqua, io mi sono sentito proprio la bocca molto molto asciutta, con la lingua molto impastata, ma proprio in modo esagerato. Volevo sapere il motivo, ecco, solo questo. Grazie Mario, la dottoressa Rottavender poi risponderà, Augusto da Bergamo e poi Wanda da Venezia. Augusto. Buongiorno, senta, se ho 62 anni, sì, pratico così a livello amatoriale lo sport del golf, che sì, è l'unico sport che mi è rimasto da fare. Mi succede che dalla tarda primavera, in estate quando fa caldo, sì, giocando dopo 7, 8, 9 buche così, mi viene un mal di testa proprio in mezzo alla fronte, sopra il naso e in mezzo agli occhi. Volevo sapere se era un problema di alimentazione, di sudorazione o che cosa, se era bisogno di integrare con qualcosa. Esami del sangue fatti recentemente sono tutti perfetti. Certo. Volevo sapere qualche indicazione. Mal di testa giocando a golf in un punto preciso della testa. Andiamo a Wanda, che ci chiama da Venezia, all'800 24 00 24. Vediamo se il nostro fil rouge continua, dottoressa Rottavender, perché abbiamo una bocca molto secca dopo pranzo, un mal di testa che compare giocando a golf, quindi facendo attività fisica all'aria aperta in un punto preciso della testa. Due segnali che spesso ci raccontano qualche cosa che è importante conoscere. Andiamo a Wanda, vediamo che cosa ci racconta. Sì, buongiorno. Io sono diabetica da 6 anni e ho questo problema d'estate, soprattutto quest'anno, che sudo tantissimo, ma tantissimo. Io di solito faccio movimento, faccio nordic walking, eccetera, con questo caldo rallentato, certo, ma sudo tantissimo e vado in ipoglicemia ovviamente, prestissimo. Perciò devo sempre ingocciarmi o con i fichi secchi oppure con qualche cereale, ecco. Volevo sapere come posso ovviare a... Mi va bene sudare. Certo, però è eccessivo, gronda. Mi lava, come dice Wanda. Dottoressa Rotavendere, ho detto, c'è una sorta di fil rouge. I primi due ascoltatori ci raccontano un sintomo, un segnale. Allora, volevo cominciare dall'ultima perché mi sembra quella più delicata. Se la signora sta prendendo dei farmaci per il diabete, può darsi che in questo momento, con il caldo, può darsi che questi farmaci in questo momento, soprattutto se va in ipoglicemia, siano eccessivi. Quindi, siccome ha dichiarato di essere diabetica, immagino che lo stia facendo. Credo che la cosa più importante che debba fare è ricalibrare, non da sola, col suo medico invece, la quantità dei farmaci che sta prendendo. Per quello che riguarda i disturbi, soprattutto mal di testa frontale, se non ho capito male, sopra gli occhi, del signore che gioca a golf, molto spesso questo tipo di mal di testa è legato al ristagno di muco all'interno dei seni paranasali, soprattutto i frontali. Mi spiego meglio, la nostra testa, il nostro cranio, lo chiamiamo massiccio cranio facciale, perché effettivamente è un pezzo di osso molto molto denso, quindi molto pesante. Ai bambini piccoli si dice non ti sporgere dal balcone perché la testa pesa e cadi. Effettivamente la testa è molto pesante perché è l'osso più spesso, più denso che abbiamo. Chi ci ha inventato, chi ci ha programmato, ha deciso di alleggerirla questa testa e quindi ha creato queste cavità che sono in comunicazione con le vie aeree, che sono i seni paranasali. Ne abbiamo due sopra le sopracciglia, due accanto alle ali del naso e due sul mento, una a destra e una a sinistra per ciascuno. Questi seni, essendo in comunicazione con l'esterno, spesso diventano un punto di ristagno di muco, e il muco è il terreno ideale che i microbi vogliono per potersi moltiplicare. Sì. Questa è la sinusite. Non sempre la sinusite dà dei sintomi, qualche volta si manifesta solo con un senso di testa piena, ma direi che il tipo di mal di testa che questo signore riferisce può essere legato a un insieme di fattori, quindi il fatto che sta facendo una fatica fisica, per quanto il golf possa essere fatto a tanti livelli, ma però insomma, certo, nove buche vuol dire sono già 2 ore, credo, non so, io non gioco a golf, ma immagino che siano almeno 2 ore di impegno. La fatica fisica, la concentrazione, il fatto che si sta anche con la testa inclinata in avanti, anche questo può avere la sua importanza perché cambiamo l'equilibrio dei liquidi che sono contenuti nel nostro cranio. Questo è l'altro. L'ultimo era quel signore dopo pranzo ecco, bocca secca sotto gli alberi. Ecco, la prima cosa che mi è venuta da pensare è questa: quando si mangia in compagnia, si mangia in allegria, poi dice abbiamo anche bevuto molto, cosa succede? Che lo stomaco si dilata e lo stomaco deve lavorare. Nel momento in cui lo stomaco deve lavorare per digerire, in qualche maniera lui ruba il privilegio di avere tutto il sangue che gli serve per poter svolgere la sua funzione, e quello che ci rimette più direttamente in genere è il cervello, il quale però si ribella, perché il cervello è un organo nobile, certo, e lui è il capo e vuole avere il suo sangue, e quindi si ribella mandando un impulso, diciamo, a tutti gli organi sensori e forse creando questo senso di sete, di bocca secca, quindi sono dei sintomi diversi. Uno è un sintomo come di reazione: attenzione, mi stai facendo mancare il nutrimento, ma sono più importante io del tuo stomaco. L'altro è lo stomaco che cerca di appropriarsi dell'ossigeno che gli serve per poter lavorare, perché deve digerire. Il fatto di aver mangiato molto, bevuto molto mentre mangiavano, provoca a maggior ragione, invece di diluire il cibo come tutti possiamo pensare, fa lavorare di più lo stomaco, perché gli fa perdere elasticità e quindi la capacità di contrarsi, è come se avessimo un muscolo un po' slabbrato. Quindi credo che la prudenza dica, di solito si spiega soprattutto in estate, pasti piccoli, leggeri, ma ravvicinati, molto ricchi di frutta e verdura che sono ricchi naturalmente di sali minerali e di liquidi, perché sono composti da una grande parte liquida, idratarsi adeguatamente, evitare tutte le sostanze come il caffè, le sostanze che possono provocare aumenti della pressione, a maggior ragione in chi prende farmaci. Questo è un argomento che se volete possiamo un pochino affrontare più nel dettaglio, perché mi pare importante. 800 24 00 24. Parliamo di fresco insieme al dottor Mauro Mocci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. E se state assumendo farmaci, 800 24 00 24, la dottoressa Lidia Rotavendere è pronta per voi, per rispondere alle vostre domande. Dottor Mocci, tendenzialmente, se possiamo, passiamo la maggior parte della nostra giornata in ufficio, in macchina, con l'aria condizionata, con cui spegniamo la sensazione di caldo che avvertiamo a livello di pelle, a livello di testa, insomma il caldo cerchiamo di sfuggirlo. Ma naturalmente anche il freddo, o meglio il fresco, ha i suoi svantaggi. Assolutamente sì, è vero che il caldo dà fastidio, ma è altrettanto vero che il freddo che noi avvertiamo come sensazione di piacere alcune volte può essere dannoso per l'organismo, soprattutto poi se le temperature sono, come possiamo sentire qualche volta entrando nei supermercati o entrando in macchina o in ambienti climatizzati, eccessivamente bassi. E allora dobbiamo ricordarci che il troppo freddo fa male, perché il nostro organismo non ha una termoregolazione così veloce da passare da una temperatura con tanti gradi di differenza. Quindi intanto cercare di rallentare il passaggio in questi ambienti, acclimatizzarsi un po' e tenere, se possibile, quando dipende da noi, le temperature non bassissime, non più di 3, 4, 5 gradi rispetto alla temperatura esterna, perché questo ovviamente danneggia il nostro organismo, perché dovrebbe avere una vasocostrizione immediata. Poi gli effetti, come si diceva prima, per esempio del signore che aveva quel dolore della fronte, potrebbero essere sicuramente da sinusite, ma il caldo è un effetto di vasodilatazione, quindi dilatando aumenta la pressione all'interno dei nostri organi, così come la vasocostrizione li riduce. Quindi attenzione a non ridurre la temperatura in modo violento per non fare questi passaggi bruschi, danni, non fare danni. Ci sono altri metodi, insomma, potremmo cercare di utilizzare ventilatori, come più volte diciamo, che ci danno un senso di freschezza, ma contemporaneamente non disidratano. Perché? È un'altra cosa che dobbiamo sapere, che viene poco tenuta in considerazione. Noi pensiamo al caldo, alla sudorazione, alla disidratazione, ma anche in ambiente molto freddo, quando è climatizzato, cioè quando ci sono i climatizzatori, i condizionatori d'aria, loro che cosa fanno? Raffreddano togliendo acqua dall'ambiente, quindi quello che si respira, soprattutto in ambienti dove ci sono anziani o bambini, va aumentata l'idratazione, perché quello che respiriamo è privo di aria, di acqua, scusate, l'aria è troppo secca. Quindi quello che un po' avviene anche quando è molto caldo, la stessa cosa. Quindi dobbiamo idratarci anche quando siamo in ambienti climatizzati. E non sentiamo il caldo, beviamo ugualmente. Dobbiamo bere ugualmente. E questo ricordiamo di farlo anche fare ai nostri bambini e agli anziani. Dottor Mocci, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. La ringrazio. Abbiamo in linea con noi anche il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno, dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psicologo e psicoterapeuta cognitivo, io ho invitato il dottor Aquilar per rispondere ad alcune mail che mi erano arrivate subito stamattina in redazione di genitori preoccupati dopo la tragedia di Franco, a chi affidare, come, perché, insomma l'ansia lo sappiamo è una cattiva consigliera. Dottor Aquilar, dedichiamo qualche minuto a rassicurare i genitori e proviamo a riflettere a voce alta con loro. Certo, possiamo senz'altro riflettere, naturalmente al primo posto legittimando la loro preoccupazione di fronte ad una notizia del genere, e poi ovviamente è importante che i nostri figli siano lasciati liberi di esplorare in condizioni protette, sia sul piano sociale sia sul piano fisico, il mondo. Toccherebbe però naturalmente mantenere in qualche modo una relazione con loro, quindi io diffiderei di quei gruppi che impediscono ai bambini di contattare i genitori per criterio tra virgolette pedagogico, e contemporaneamente stare attenti a coloro che si occuperanno dei nostri figli, quindi mantenere un'attenzione e una vigilanza e se possibile anche una relazione personale. Per il resto è una situazione indispensabile nella vita dei nostri bambini, li aiuta a costruire relazioni sociali fin dalla prima infanzia e a esplorare il mondo in un contesto leggermente diverso dal tipo di protezione che possiamo dare in famiglia. Abbiamo bisogno di un consiglio sul nostro Daily Love, dottor Aquilar. Possiamo contare su una riflessione che ci può postare sul nostro Daily Lab? Ma certamente, ma come no, la farò volentierissimo. Grazie dottor Aquilar per essere stato con noi. Dottoressa Rotavender, farmaci. Arrivano molti messaggi, io prendo i diuretici, io prendo gli antiimpertensivi, gli antidepressivi, sono diabetica, ci sono delle categorie di farmaci che con il caldo possono alterare magari alcuni meccanismi che vanno ritoccati naturalmente sempre con il consiglio del medico, la sudorazione eccessiva come la nostra amica di Venezia a cui lei ha risposto. Altro, quali sono le cose da sapere? Le persone che prendono farmaci per definizione sono persone che in generale, per la grande maggioranza, sono persone che hanno superato diciamo i 50 anni. Molto spesso non prendono un farmaco ma più farmaci e per esempio parliamo dei farmaci per la pressione alta. È importante sapere che durante la stagione calda, non quando per 3 ore fa molto caldo, ma durante la stagione calda, può darsi che il nostro organismo abbia bisogno di una dose di farmaco antiipertensivo, quello che ci hanno detto che dobbiamo assumere tutti i giorni, o quelli, perché molto spesso sono 2 o 3, minore rispetto a quella che prendiamo abitualmente. Come facciamo ad accorgerci se quella medicina che prendevamo e ci andava bene durante l'inverno improvvisamente, fra virgolette, è troppa per noi? Ce ne possiamo accorgere perché ci sentiamo particolarmente stanchi dopo che l'abbiamo presa, particolarmente abbattuti, con un respiro un pochino più lento, un po' meno forza di reagire. In questo caso si va dal medico, mai fare da sé, si va dal medico, si riferiscono i sintomi, il medico adeguerà la terapia. Durante la montagna, per esempio, soggiorno in montagna, molto spesso le persone che soffrono di ipertensione sono preoccupate perché quando vanno in montagna effettivamente possono avere dei mal di testa molto forti. Allora, la montagna comporta un aumento della pressione arteriosa in tutti i soggetti, anche in quelli sani che normalmente non prendono farmaci, a maggior ragione può comportare un aumento della pressione in quelli che sono ipertesi di base e che stanno prendendo dei farmaci. Quindi, al contrario di quello che abbiamo detto prima, quando si va in montagna, se arriva il mal di testa, se il mal di testa è pulsante, se si ha la sensazione di avere la testa piena, questo potrebbe essere segno che stiamo avendo una pressione troppo alta e quindi abbiamo bisogno di una dose di farmaco più alta di quella che prendiamo di solito per abbassare la pressione, sempre prima parlando con il medico. Possiamo sentire al volo Beatrice che ci chiama da Ferrara all'800240024 da Carrara, mi hanno scritto Ferrara, l'hanno trasferita temporaneamente, ma Beatrice lei è qui con noi. Rapidamente la sua domanda per la dottoressa. Grazie. Guardi, io da un anno e più circa soffro di qualche giramento di testa, era solo qualche giramento di testa, però una volta ho avuto anche uno svenimento. Ultimamente, dato che mi hanno riscontrato un'ischemia cerebrale, mi hanno dato il cardioprasolo per riparare lo stomaco e la aspirinetta, la cardioaspirina, per naturalmente tenere il sangue liquefatto, fluido. Però questi mi hanno dato ulteriori disturbi, per cui io cade. Beatrice cade, dottoressa Lidia Rotavender, anche noi tra poco cadiamo, ma deve guardare bene il ritmo del suo cuore. Molto spesso le persone che stanno prendendo l'aspirina, che fluidifica il sangue per impedire che dei piccoli emboli vadano a livello del cervello, molto spesso hanno dei disturbi del ritmo del cuore e sono quelli che fanno cadere la signora. Quindi deve tornare dal suo cardiologo e fare un elettrocardiogramma registrato nelle 24 ore e, se necessario, ripetuto più volte. Grazie dottoressa Lidia Rotavender per essere stata con noi. Grazie a voi, a domani, buona giornata.